Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, la prima con la mia conduzione, quindi buon anno a tutti gli ascoltatori e andiamo subito ai temi della giornata economico-finanziaria. Chiaramente partiremo oggi con la proposta riconfermata dal Presidente del Consiglio di ridurre le tasse, le aliquote, vedremo se poi si arriverà al 23-33%, ma in realtà al di là delle dichiarazioni, di quello che è l'aspetto più politico, cercheremo di capire, così, con delle simulazioni operativamente, quali siano i margini, quelle che si chiamano in gergo le pieghe nel bilancio dello Stato, visto che comunque il debito pubblico continua a salire, l'anno che si è appena aperto è un anno in cui bisognerà trovare parecchi soldi per rifinanziare il debito pubblico italiano e sarà anche un anno in cui gli altri paesi dovranno trovare, reperire sul mercato finanziamento per i debiti che si sono allargati nel 2009 per via appunto della crisi finanziaria. Le emissioni, come si chiamano in gergo, cioè quante titoli di Stato verranno emessi appunto per rifinanziare il debito nel 2010, vedono l'Italia allo stesso livello del 2009, devo dire, ma in testa, 256 miliardi di euro, poi la Francia 250, Germania 223, Spagna 140. In totale dall'area euro o l'area euro dovrà trovare finanziamenti per il proprio debito pari a per 850 miliardi di euro, ma poi c'è il Giappone che ha 1000 miliardi di titoli di Stato da rifinanziare e gli Stati Uniti 1300 miliardi. Questo per dire che all'interno di questo scenario poi bisogna capire come si può muovere un'eventuale riduzione della pressione fiscale e in che modo, visto che da quello che capiamo l'obiettivo dovrebbe essere avvantaggiare i redditi più bassi, chiaramente, quindi dare un po' di respiro sul potere d'acquisto. Nel giorno in cui, e questo è il secondo tema di cui parleremo, l'Istat diffonde i dati sul 2009 e, come immaginabile, si conferma una riduzione del potere d'acquisto delle famiglie italiane, in media 500 euro in meno a famiglia, meno 1,6% il potere d'acquisto delle famiglie, il reddito nominale meno 1%, diciamo appunto più o meno siamo sui 500 euro a famiglia. Ancora parleremo del Salone di Detroit che si apre oggi in America con ottimi numeri da parte del colosso General Motors, ma anche con le dichiarazioni di Sergio Marchionne sulla Chrysler e in generale sul gruppo Fiat. Poi, come sempre, le borse, adesso arrivo anche a darvi l'aggiornamento, e nella seconda ora del programma, grande richiesta, diciamo, se, senza voler essere irriverenti, ma con anche la benedizione del Papa che ha detto attenzione agli economisti e ai maghi, noi di solito abbiamo gli economisti, oggi sarà la volta di un'astrologa, qualcuno di voi se la ricorda ancora, che devo dire ci ha imbroccato abbastanza per il 2009 quando fece delle previsioni l'anno scorso. E allora, per iniziare anche in maniera, non dico leggera, ma un po' più così, faceta, sentiremo anche le previsioni dell'astrologia per il 2010 quanto a borse, economia e mercati azionari. Questa nella seconda ora del programma, torna l'astrologa Focus Economia, torneranno anche gli economisti, i gestori, l'SGR, non vi preoccupate, si fa anche un po' per diversificare. 349-238-6666 per i vostri sms, subito le notizie in breve partendo dalla borsa. Dopo una settimana buona come quella scorsa, settimana parziale ma buona, le borse oggi aprono invariate, invariata Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte e leggermente positiva Londra, più 0,1%, invariata anche l'America. Euro su dollaro 1,4537, tra i titoli si segnalano soprattutto le Pirelli, più 2,7%, Atlantia più 1% ed Eni, anch'essa in rialzo dell'1%, Prismian più 0,90, Saipem più 0,7, A2A mezzo punto percentuale di rialzo come Unicredito e Snam Rete Gas. Chi va male? Parmalat perde il 4% come in pregilo, il Monte dei Paschi perde il 2%, 1,5%, Mondadori l'1,7% come il Banco Popolare, Stimarco Electronics perde 1,5%, Telecom l'1,2%, Campari l'1% come Autogrill la Popolare di Milano, Unipol meno 1% anch'essa, Ubibanca meno 0,7% come Tenaris e Buzzi Unice. A fare notizia oggi sui mercati però di nuovo il petrolio, che ha aperto stabilmente sopra gli 80 dollari al barile, anzi a 83,6 dollari al barile, ai livelli più alti da 15 mesi a questa parte. Ancora rialzi nella benzina, purtroppo alla Shell in Italia la benzina ha toccato 1,36 euro al litro. Dicevo che del salone di Detroit, quello più importante nel Nord America per l'auto, parleremo più avanti. Comunque il numero di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne ha detto i risultati del 2009 sono in linea con i nostri obiettivi e tra l'altro un certo ottimismo è stato diffuso anche dal numero uno della Ford, il presidente Bill Ford, siamo sulla strada giusta, e anche dal numero uno dell'altro grande colosso americano in estrema difficoltà l'anno scorso, mi riferisco a General Motors, perché praticamente il vicepresidente Bob Lutz ha detto che lo stato di salute di General Motors è più che buono e i conti non erano così soddisfacenti da decenni a questa parte. Ci spostiamo non ancora in Europa, restiamo in America. Perché? Perché è una vera e propria ondata di critiche quella che sta arrivando negli Stati Uniti sul tema dei bonus ai manager delle banche. Questa dimostrazione che non è una nostra ossessione, come alcuni ascoltatori hanno scritto, criticare i bonus ai banchieri, ma è oggettivamente un tema d'attualità. Allora, il numero uno degli advisor, dei consiglieri economici della Casa Bianca, Christina Romer, ha definito i bonus che le banche d'affari americane si stanno dando scandalosi, come ha riportato oggi il Financial Times. E questa pressione della Casa Bianca, questo nuovo braccio di ferro, sta portando le banche a cercare strumenti così un po' alternativi, magari non dare i bonus veri e propri ma dare delle azioni. Goldman Sachs, che ha accantonato, cioè ha messo da parte per il 2009, mi viene da ridere, insomma, 17 miliardi di dollari, più di una manovra finanziaria in Italia o in Francia, visto che insomma tanto bene avevano fatto, ha detto che aumenterà la beneficenza. Non è la stessa cosa, a nostro avviso, meglio aumentare i crediti alle imprese, ai cittadini che ne hanno bisogno. E tra l'altro solo in tutta Wall Street nel 2009 i bonus praticamente arriveranno a cifre folli, e pensate che in Goldman Sachs la media di tutti i dipendenti sarà di mezzo milione di dollari a dipendente, cioè 595 mila dollari a dipendente. Ora io capisco festeggiare la scampata crisi, ma ricorderei anche ai manager bancari che questa crisi l'hanno generata loro. E poi ricordo anche le parole pronunciate due giorni fa dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi in quanto presidente del Financial Stability Board. Ha detto: attenzione, la finanza e il credito stanno migliorando ma sono ancora fragili e la situazione del sistema finanziario globale potrebbe non essere così buona come i mercati e le borse sembrano dare per scontato. Udite, udite. Oggi su questo fronte è intervenuto comunque anche il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, che ha detto che si conferma la ripresa globale ma massima attenzione all'andamento del credito, e poi occorre che i paesi inizino a rientrare con i deficit di bilancio che hanno accumulato nel 2009. Resta il problema più grosso, la disoccupazione per il 2010, e poi completare il programma di riforme del Comitato di Basilea. Allora, prima di arrivare al tema di apertura, potere d'acquisto degli italiani, riforma fiscale annunciata dal governo, ancora due notizie di Marielle Burani, ci siamo molto occupati anche la settimana scorsa. Oggi i PM di Milano Luigi Orsi e Mauro Clerici hanno chiesto il fallimento nei confronti di Burani Design Holding, che è la holding con sede ad Amsterdam, una delle holding a monte della catena. la Burani Design Holding avrebbe debiti scaduti per già 20 milioni di euro. 20 milioni di euro, di cui 5 milioni li deve a Mariella Burani Fashion Group, e gli altri 15 li deve a due banche, Deutsche Bank e JP Morgan. Io ricordo che Mariella Burani Fashion Group, che ha 2000 dipendenti, il titolo è sospeso dal 28 agosto, ha comunque mezzo miliardo di euro di debiti, e oltre 40 banche creditrici hanno chiesto ripetutamente alla famiglia di depositare un conto vincolato da 50 milioni, e adesso insomma la situazione si sta da un lato sbloccando, ma dall'altro, con questa decisione di oggi, in qualche modo sta arrivando a una resa dei conti. Va bene, si fa per dire. Partiamo col primo tema. Già da oggi dovrebbe insediarsi il gruppo di esperti voluto dal Ministro dell'Economia per valutare e dare forma al disegno di riforma del sistema fiscale. Avete letto sui giornali l'annuncio: riduzione delle aliquote dalle attuali 5 a 2, da 1 al 23% fino a 100.000 euro e 33% oltre 100.000 euro, con un sistema di deduzioni che conserva la progressività dell'imposizione fiscale. L'aliquota più bassa, il 23%, riguarderebbe quasi tutti, visto che poi adesso vi leggerò anche la tabella di chi dichiara più di 100.000 euro all'anno, e purtroppo siamo sempre ai soliti pochissimi italiani, per cui pensate che se sommando chi dichiara più di 100.000 euro si arriva a 230.000 italiani, se sommiamo insomma tutti quelli sopra 100.000 euro arriviamo a 320.000 italiani. Dicevo, chiaro che è impensabile in questo momento arrivare subito al 23%, cerchiamo di capire però quale inizio di manovra fiscale possa essere fatto, conti pubblici permettendo. Il costo complessivo di questa manovra, infatti, se si portassero le aliquote fino a 100.000 euro al 23% e poi al 33% oltre 100.000 euro, sarebbe tra i 20 e i 30 miliardi di euro. Non è pensabile farla, sono più di due manovre finanziarie, farla in un anno solo. Con un reddito di 20.000 euro lordi, comunque, se vi fossero già le due aliquote, il risparmio sarebbe di 200 euro l'anno. Se uno guadagnasse 40.000 euro avrebbe un risparmio di 2.300. Se guadagnasse 100.000 euro l'anno risparmierebbe 13.000 euro. Ed è su questo che le critiche si sono mosse. Si dice: attenzione, in questo modo si vanno a privilegiare i redditi più alti, mentre qui c'è bisogno di far ripartire i redditi medi e medio-bassi. Andiamo con ordine. Intanto le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi, i tempi della riforma fiscale. Ho lavorato molto alla riforma fiscale, abbiamo delle idee molto buone e credo che ci sia indispensabile ammodernare il Paese, e quindi su questo credo che varrà la pena di impegnarsi tutti, e speriamo che anche l'opposizione su questo possa con noi convenire che si tratta di una cosa indispensabile. Ancora, contrario invece all'ipotesi delle due aliquote, il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, Massimo Donati, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Abbiamo detto che di fronte a una riforma equa saremo disponibili al confronto. Due aliquote, delle quali una va a colpire il 99% degli italiani, però non sono eque. Significherebbe un'unica tassa per tutti, per i poveracci e per i ricchi, e a giovarsene ancora una volta, e come sempre, sarebbero soltanto i ricchi. L'Italia dei Valori farà le sue proposte, che sono meno fisco per il lavoro, più fisco sulle rendite improduttive e sulle speculazioni finanziarie. E dicevamo critico anche il PD, per voce di Enrico Letta, vice segretario del Partito Democratico, ha detto che si tratta di uno slogan elettorale in vista delle elezioni regionali. Berlusconi ha avuto 8 anni di tempo per realizzare le promesse, non si è visto nulla. La priorità è portare dal 23 al 20% l'aliquota per la grande maggioranza dei lavoratori dipendenti. Tra l'altro non certo avvantaggiare, diciamo, le fasce più ricche della popolazione, comunque la manovra, un'operazione del genere costa tra i 20 e i 30 miliardi di euro. Non arriva un no dai sindacati, che chiedono però, lo ha fatto la CGIL con una lettera di Guglielmo Epifani, segretario generale a Berlusconi stesso, chiedono un rapido segnale e che la riduzione della pressione fiscale sia fatta sui lavoratori dipendenti, sui pensionati, così come anche la CISL, per voce del segretario Raffaele Bonanni, ha detto: in un mondo, in un'Italia che è cambiata, fatta da molte piccole aziende, molte partite IVA, occorre pensare aliquote più basse a meno aliquote e più basse, rivedendo l'intero sistema. Il tutto appunto nel giorno in cui l'Istat, dopo aver analizzato come va il potere d'acquisto degli italiani dall'ottobre del 2008 al settembre 2009, ha scoperto che è diminuito dell'1,6% come reddito reale, quindi già al netto dell'inflazione. Infatti sarebbe meno 1, però bisogna sommare l'inflazione, fa meno 1,6%, e vuol dire circa 500 euro in meno a famiglia come potere d'acquisto, ma è aumentata la propensione al risparmio, più 0,4%, i consumi sono diminuiti in maniera maggiore rispetto al reddito, meno 1,5%, cioè si è consumato meno anche di quanto non si sia guadagnato meno, mettiamola così, ed ecco spiegata la dinamica del risparmio che leggermente salito. La quota di profitto delle società non finanziarie infine è calata del 2%, sempre nel periodo considerato. Vedo già molti messaggi al 349-238-6666 e adesso risponderemo. Intanto grazie a Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, che da sempre segue i temi di politica economica. Buonasera Dino. Grazie a voi. Poi arriveremo col professor Bordignon che ci ha raggiunto. Allora, saluto anche il professor Massimo Bordignon che è uno dei massimi esperti di fisco in Italia, nostro ospite già altre volte, professore che insegna scienze delle finanze alla Cattolica di Milano. Buonasera. Buonasera a lei. Dino Pesole, che cosa si è capito in più oggi dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio e da quello che tu sei riuscito a raccogliere? È chiaro che il governo non può pensare di fare due aliquote, 23 e 33 quest'anno, ma quale può essere la direzione? Cioè andare a ridurre la pressione fiscale complessiva, portare dal 43 al 40? Dunque, le ipotesi che si fanno in queste ore sono, al di là poi delle dichiarazioni, che ovviamente hanno un aspetto politico, come tu stesso sottolineavi, e poi un aspetto tecnico, vanno in questa direzione. Il ministro Tremonti sta per insediare appunto una commissione, sarà un lavoro lungo, complesso, in cui verranno coinvolte le parti sociali, ma anche gli esperti, gli operatori, e probabilmente già quest'anno, con la probabile finanziaria, o come si chiama ora, legge di stabilità, comincerà a dare un primo segnale, tenendo conto che questo è un percorso che è comunque un percorso di legislatura. Quindi se effettivamente si arriverà alle due o tre aliquote, questo non potrà avvenire ovviamente nell'arco breve di sei mesi, un anno, ma occorreranno almeno 3-4 anni. Quindi sicuramente gradualità, tenendo conto che abbiamo dei vincoli che non possono essere elusi. Abbiamo il debito pubblico, lo sappiamo tutti, lo diciamo sempre, debito in aumento, siamo nei dintorni quest'anno del 117% del PIL, abbiamo da rinnovare titoli appunto per sostenere questo debito pubblico per un importo che supera i 400 miliardi di euro, abbiamo il giudizio dei mercati ovviamente che pesa sulla sostenibilità di medio periodo della nostra finanza pubblica, abbiamo per ultimo la procedura di disavanzo eccessivo per deficit che Bruxelles ha aperto nei confronti di quasi tutti i paesi europei peraltro, e che comunque ci impegnerà anche noi a un percorso di rientro. Alla luce di tutte queste precondizioni, il governo comunque sta cominciando a lavorare su questo che si annuncia come un grande tema. Allora ti do subito un aggiornamento, perché è uscita un'agenzia in cui il Presidente del Consiglio Berlusconi, è uscita ora, avrebbe esposto questo ragionamento durante l'incontro di maggioranza che si è tenuto a Palazzo Grazioli. L'auspicio è che la riforma del fisco possa essere incardinata già quest'anno, e quindi disegnata, ma è presto per parlare di riduzione delle tasse nel 2010, già qui iniziamo a mettere i paletti, visto che la priorità è quella di mantenere in equilibrio i conti pubblici. Qui si fa sentire anche il peso di Tremonti, tra le righe, ecco. Per cui l'auspicio è di avviare un disegno di riforma che possa, da come capisco io questa agenzia, essere operativo nel 2011. Prima di passare al professor Bordignon, e quindi ragionando a conti pubblici almeno invariati, quindi senza creare nuovi buchi o comunque una riduzione del gettito fiscale, vorrei capire avere una conferma da te, Dino Pesole. Negli ultimi dati che abbiamo visto, mi confermi che è aumentata la spesa corrente? La spesa corrente è aumentata e questo certamente. Questo è strano. È aumentata certamente, lo era già peraltro nel confronto 2008-2007, e molto probabilmente questo sarà confermato anche dai dati Istat nel consuntivo del 2009. È evidente che sia aumentata, perché in un anno in cui comunque i conti pubblici, è vero, sono stati tenuti in sostanziale equilibrio, ma noi abbiamo registrato e registreremo un deficit quest'anno, lo scorso anno, quello appena concluso, che supererà il 5%, e c'è sicuramente un aumento della spesa corrente. C'è un altro aspetto che secondo me va sottolineato quando si parla anche di aumento della spesa corrente, ma con riferimento al processo di riordino del nostro sistema tributario, è che tutto questo complesso di misure che si metteranno in moto entro quest'anno dovranno essere armonizzate con la madre di tutte le riforme, come l'ha definita più volte. È quella federale? È il federalismo fiscale. Non si può ipotizzare una riforma del sistema tributario basata sulle aliquote che non sia in qualche modo armonizzata, anzi fondamentalmente armonizzata, con un nuovo percorso di federalismo fiscale, quando questo sarà attuato, perché abbiamo per ora solo la cornice, che è un disegno di legge delega. Poi vedremo quando verrà messo in pratica. Sì, ti ho chiesto la spesa corrente perché è la cosa che più così ci preoccupa. La spesa corrente, lo dico a chi scrive, è quella non per investimenti, diciamo, è quella per pagare gli stipendi, per pagare le cose che poi devi ripagare ogni anno, ecco, per dare una definizione un po' approssimativa, ma spero efficace, di spesa corrente. Ed è un peccato, mettiamola così, che sia aumentata anche quella, perché vuol dire che la stretta sulla spesa della pubblica amministrazione è una stretta che ha ancora poca presa. Quello senz'altro. C'è da aggiungere che noi abbiamo appunto a che fare con una spesa per interessi che comunque è pari a quasi il 5% del PIL. Però gli interessi erano bassi, perché con i tassi ai minimi noi abbiamo anche risparmiato un bel po' di spese per interessi. Un bel po', ma in presenza di un debito comunque così elevato dobbiamo tirar fuori qualcosa come 70 miliardi di euro l'anno. Quindi questo è un po' il discorso. Un punto percentuale di tasso di interesse della Banca Centrale Europea costa all'Italia circa 12 miliardi di euro l'anno in più o in meno di spese per interessi. Grazie Dino Pesole e buon anno anche a te. Grazie. Allora, professor Bordignon, ragioniamo a perimetro di spesa invariato, cioè senza toccare i conti pubblici, perché non si può, anzi bisognerebbe ridurre la spesa, però fatto 100 quello che è la tenuta, forse tra le pieghe si può ottenere una riforma fiscale, cioè dire semplicemente non si può riformare il fisco perché abbiamo un altro debito significa, secondo me, non prendere in considerazione alcune variabili. E allora vorrei capire, nell'ordine, è sbagliato un approccio tutto legato all'IRPEF? Cioè noi sentiamo parlare sempre di aliquote IRPEF al 43%, quella più alta, così. Le tasse non sono solo l'IRPEF, a parte che ci sono anche le addizionali, c'è anche altro, no? Sì, allora questo forse sarebbe il primo punto di partenza. Io penso che rispondiamo in questo modo. Secondo me è giusto invece che si cominci a parlare di riforma fiscale, perché il fisco è una cosa che serve per finanziare lo Stato, però serve per redistribuire, serve per dare incentivi a crescere o ridurre quegli incentivi, quindi ragionare in termini di riforma del fisco è un'ottima cosa e va fatta anche in un momento di crisi. L'IRPEF in quanto tale copre meno di un terzo delle entrate tributarie complessive dello Stato, quindi È chiaro che se uno concentra soltanto il ragionamento sull'IRPEF, soprattutto se, come si diceva prima, l'obiettivo può essere soltanto quello di mantenere il gettito invariato, o queste riforme dovrebbero essere veramente pensate cercando di mantenere il gettito invariato, non si possono fare grandi risparmi sull'IRPEF a meno che non si pesi su altri cespiti o su altri contribuenti che al momento non stanno dentro l'IRPEF. E poi appunto l'IRPEF riguarderebbe soprattutto i lavoratori, anzi i lavoratori dipendenti, non toccherebbe, lì ha ragione la CISL, cioè milioni di parte IVA, piccoli imprenditori, artigiani, insomma la riforma fiscale si deve avvantaggiare le classi medio-basse, ho capito l'obiettivo è questo, alla luce anche del potere d'acquisto delle famiglie che diminuisce, deve andare a avvantaggiare tutti i redditi medio-bassi, non solo quelli dei lavoratori dipendenti. Detto questo, allora lei dice facciamo non la riforma dell'IRPEF ma una riforma fiscale complessiva in cui, se ho ben capito, diminuisci l'IRPEF nelle aliquote più basse e non tanto per quelli che guadagnano di più, ma dove vai a reperire i soldi che ti entrano in meno? No, più in generale secondo me c'è da fare un discorso sia di redistribuzione che di efficienza. Noi siamo un paese in cui tassiamo molto i redditi, in particolare i redditi dal lavoro, ma anche i redditi di impresa, cioè i redditi dei fattori produttivi. Tassiamo poco invece altri cespiti, a cominciare dai consumi, al patrimonio, al reddito delle attività finanziarie. Lì ci sono possibilità di interventi che recupererebbero un po' di risorse. Male ha fatto da questo punto di vista, dal mio punto di vista, il governo a ridurre, per esempio, eliminare l'ICI, che sono comunque 3 miliardi. Che sono saltati al regime e che in qualche modo dovranno essere recuperati. Perché male ha fatto eliminare l'ICI? Quella è comunque l'eliminazione di una tassa. Beh, è eliminazione di una tassa, ma una tassa che serviva a finanziare i comuni, che era basata su un principio del beneficio, era basata sul valore catastale di una casa. Il valore catastale di una casa, se il catasto funziona bene, riflette anche i servizi che il comune offre a quella casa. E quindi in un certo senso ritornano indietro le risorse che il comune stesso ha investito in quella direzione. E poi deve tenere conto di questo aspetto. Nell'IRPEF, come si diceva prima, perché alcuni redditi sono tenuti fuori, i redditi da capitale, altri perché sono evasi, per più dell'80% ci stanno dentro solo i redditi dal lavoro dipendenti. Quindi noi abbiamo un sistema in cui tutta la redistribuzione che facciamo con la progressività la facciamo all'interno della stessa categoria, del lavoro dipendente, mentre quelli che viaggiano, che vivono soprattutto di redditi da capitale o da patrimonio non contribuiscono altrettanto al finanziamento delle spese dello Stato. E qui c'è un elemento di ingiustizia, ma c'è anche un elemento di efficienza, perché voglio dire, se lei ha l'obiettivo di diventare ricco, che è del tutto giustificabile e immaginabile, forse lo Stato deve anche aiutarlo in quella direzione, non vuole penalizzarlo troppo con aliquote troppo elevate. Allora, dopo le informazioni meteo, vorrei introdurre un tema che so che alcuni si arrabbieranno, e cioè io continuo a trovare strano, mettiamola così, che da noi il reddito da lavoro, cioè quello fatto lavorando, viene tassato appunto fino al 43%, e è a maggior ragione se tu sei un lavoratore dipendente, privato o pubblico, poco cambia, le paghi tutte le tasse, e invece la rendita da capitale, cioè chi ha investito in bot, in borsa, in speculazione finanziaria, è al 12,5%. Anche lì, senza penalizzare il risparmio, senza penalizzare la classica vecchietta che ha i bot, però c'erano varie proposte di portare la tassazione sui guadagni finanziari, soprattutto quando realizzati a breve, cioè nell'arco di sotto l'anno. Allora è difficile che la vecchietta faccia trading con i bot, e vada a lavorare. È più che altro una sala operativa che compra e vende al minuto o al giorno o nell'arco di un mese. Forse lì si potrebbe portare la tassazione a un livello più europeo, intorno al 20%. E poi vorrei capire anche sull'IVA, cioè tutti gli insiemi di tasse che compongono poi la pressione fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. D'accordo con chi scrive che da noi la pressione è 45, ma è solo per alcuni è 45, quindi si scarica tutto sui contribuenti più onesti. ...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche alla borsa. Allora, professor Bordignon, chiarito che non si può fare una manovra fiscale solo sull'IRPEF, perché sennò abbiamo problemi di gettito. Andiamo con questa simulazione. Lei dove opererebbe? Ma come le ho detto, secondo me quello bisogna fare, bisogna aprire in due direzioni. Il problema del fisco italiano non è soltanto che è molto elevato, ma che pesa esclusivamente sugli stessi cespiti e su pochi contribuenti. Per allargare la fase dei contribuenti l'unica strada è quella di combattere in maniera più feroce l'evasione fiscale. Su quella dei cespiti bisogna spostarsi un po', come le diceva già giustamente lei, sulla tassazione dei redditi dell'attività finanziaria, dove secondo me sarebbe del tutto possibile fare un'operazione di riorganizzazione, di ammorbidizzazione delle diverse aliquote, perché è vero ce ne stanno alcune al 12,5%, ma ce ne stanno altre, per esempio sugli interessi dei conti correnti al 27%, si potrebbe riportarla tranquillamente a un 20% media senza nessun problema di concorrenza internazionale. Questo porterebbe a casa, dipende dagli andamenti, borse e quant'altro, ma una cifra intorno ai 4-5 miliardi. E poi bisognerebbe ragionare invece su questa parte dei consumi, dove lì è secondo me in due direzioni. Uno, perché per un motivo di efficienza è meglio tassare il consumo piuttosto che la produzione, e quindi spostandosi in quella direzione darebbe un pochino più di incentivi alla crescita economica, che è quella che ci serve. E poi i consumi, la tassazione dei consumi è tipicamente regressiva, ma perché tassiamo tutti con aliquote molto simili. Abbiamo degli spazi di manovra per poter cercare di articolare le aliquote sui consumi in modo tale da introdurre un po' di redistribuzione anche su quel lato lì. Cioè non tutti comprano lo champagne e non tutti comprano, tutti comprano il pane. Ecco, mi sembra, come ultima domanda, professor Brodignon, che qui però si sia di fronte a un cambio di proprio di mentalità, nel senso di culturale. Come già ricordava, se non ricordo male, ieri il ministro Brunetta, cioè andare a tassare più i consumi che il reddito al lavoro vuol dire cambiare proprio approccio e dire non è tanto quello che tu hai prodotto nell'arco del mese, ma come hai consumato, che cosa hai speso e dove le hai spese queste cose. Come è pensabile rendere in qualche modo progressiva, cioè tassare di più chi guadagna di più e un po' di meno chi guadagna di meno, i consumi? Cioè l'IVA è al 20%. Per esempio, non 19. Non ce l'abbiamo al 10, ce l'abbiamo anche al 4. Ci sono delle possibilità di differenziare le aliquote. Abbiamo un impegno con l'Unione Europea, perché ci doveva essere il famoso passaggio al sistema all'origine, che non c'è mai stato, di rimanere su intervalli di aliquote, ma in quegli intervalli spazi ci sono per differenziarle a secondo delle tipologie di consumo. E recuperando anche un po' di evasione da IVA, no? Perché quello è l'altro tema fondamentale. Ecco, su questo punto di vista, questo è il problema nazionale, perché quello che dicevano le sue mail prima riflettono la realtà: il 45%, il 45% medio, in cui nel PIL ci sono già il recupero dell'evasione calcolato dall'ISTE. In realtà, su quelli che pagano le imposte, l'aliquota fiscale è molto più elevata, il 55%, su quelli che non le pagano, l'aliquota è più bassa. Adesso le possibilità di intervenire ci sono, tra l'altro un po' tutto questo, ha ragione il Ministro quando dice si stanno chiudendo gli spazi sui paradisi fiscali e quant'altro, perché diciamo tutti i governi europei si sono un po' stufati della possibilità che i più ricchi avevano di spostare facilmente fuori i soldi, e quindi qui c'è la possibilità di agire in maniera più decisa. E qui è una questione, guardi, con tempo, con calma, con gli interventi ci voglio fare, ma essenzialmente è una questione di volontà politica. Anche perché, lo dico senza voler creare allarmismi, è chiaro che il recupero dell'IVA è il recupero di un consumo già effettuato, e quindi mentre aumentare la tassazione sul reddito da lavoro è in qualche modo, insomma, si basa su ipotesi future, quindi insomma è il recupero di un qualcosa che è già avvenuto. E qui non vogliamo arrivare, lo dico a chi scrive, non abbiamo mai toccato il tema del patrimonio, della tassazione del patrimonio, anche se ricordo che proprio i commercialisti, tramite il loro presidente Siciliotti, hanno proposto di tornare a un redditometro, eliminare gli studi di settore e tornare a un redditometro, in cui si va a vedere insomma quante case hai, quante barche hai, che macchine hai, e si cerca di capire il tuo reddito al di là di quello prodotto da lavoro, perché anche quello poi è il tema. Grazie Massimo Brodignon. Adesso cambiamo radicalmente tema e ci spostiamo a Detroit. Prima di arrivare alla borsa e all'astrologa, vedo cresce l'interesse per l'astrologa, un po' di pazienza. 18:10, andiamo invece sulle previsioni fatte dai big dell'auto. Si è aperto oggi il salone di Detroit, 103° salone, tramontata all'epoca delle grandi tre, Ford, GM e Chrysler, ormai siamo alle cosiddette medium six, cioè GM, Ford, Toyota, Honda, Nissan E poi il sesto posto se lo giocano la Fiat Chrysler con la Volkswagen e la Hyundai. Un 2009 da dimenticare per gli Stati Uniti, storico il sorpasso della Cina sugli Stati Uniti come produzione di auto. Però mi sembra che dalle dichiarazioni che abbiamo letto esca un bel po' di ottimismo. Bill Ford, numero uno della Ford, il numero due da General Motors, Bob Lutz. Tutti insomma a dire che le cose vanno bene. Chiedo conferma a chi a Detroit c'è veramente, ossia l'inviato del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Sì, in effetti c'è un certo ottimismo sulle vendite. Quest'anno il 2009 si è chiuso con 10 milioni e mezzo di veicoli venduti. Per il 2010 si prevedono tra 11 e 12, questa è la previsione di GM, o tra 11 e mezzo e 12 e mezzo la previsione di Ford, quindi con un rialzo che potrebbe arrivare addirittura al 15-20% nel caso più ottimista, dipenderà da come va l'economia americana. Teniamo presente che avendo tagliato moltissimi costi, soprattutto GM e Chrysler, ma anche Ford, negli ultimi due anni, sia costi del lavoro, costi di fornitura, eccetera, sono in condizioni a questo punto, se la domanda si riprenderà appena un po', di tornare a fare utili. Il business dell'auto è tale che si può passare da un profondo rosso a un sacco di profitti in tempi relativamente brevi, come è già successo in passato, ed è quello che ovviamente sperano i costruttori. Lo spera anche il contribuente americano, che come sappiamo ha investito pesantemente sia in General Motors che in Chrysler. E a questo proposito abbiamo assistito 10 minuti fa alla visita di una delegazione folta del Congresso guidata da Nancy Pelosi, la speaker democratica, allo stand della Chrysler, dove Sergio Marchionne ha mostrato quasi tutte le macchine italiane, quindi la Ferrari, la Maserati e anche un paio di 500 che sappiamo sarà il primo modello targato Fiat a esordire qua sul mercato americano. Quindi soddisfazione da Ford, da General Motors, anche Marchionne mi sembra che abbia detto complessivamente per il gruppo Fiat che gli obiettivi del 2009, cioè che i risultati del 2009 sono in linea con gli obiettivi che saranno dati? Assolutamente, questo è quanto ha dichiarato, che non è diverso da quanto ha detto nei mesi passati per quanto riguarda il gruppo nel suo complesso. Ovviamente qui l'attenzione soprattutto è al marchio Chrysler. Ricordiamo che le prime vetture, i primi motori made in Italy o con tecnologia Fiat arriveranno solo tra uno o due anni, e quindi il problema di Chrysler sarà quest'anno e l'anno prossimo di resistere tra virgolette con una gamma di prodotto che non è nuovissima e con qualche novità relativamente limitata, resistere all'assalto di una concorrenza che, a parte GM e Ford, anche i giapponesi, è ovviamente sempre più agguerrita. Una volta superato questo periodo si potrà cominciare a parlare di vera e propria integrazione, quindi con auto tra l'altro con tecnologia italiana tendenzialmente più piccole e a maggiore economia di consumo, quindi più adatte alle nuove tendenze. Ecco, nel concludere questo collegamento, perché poi sta per iniziare la conferenza stampa di Sergio Marchionne, Andrea Malan, dacci qualche così chicca più di colore sui modelli. Ho letto, se ho ben capito, che a Detroit c'è anche la 500, la Fiat 500 elettrica? C'è una 500 elettrica sulla quale i rappresentanti del Congresso si sono molto soffermati. Marchionne ha spiegato in dettaglio così le caratteristiche dell'auto, ma ha anche detto per produrla in maniera economica abbiamo bisogno di volumi molto elevati. È per questo che almeno all'inizio la macchina è stata sì costruita, ma Fiat Chrysler non è fra i gruppi che scommettono di più sull'alimentazione puramente elettrica in questo momento, quindi aspetta un attimo a vedere diciamo come si evolverà la tecnologia e come si evolveranno i costi. E Lancia Delta targata Chrysler, insomma, accanto a Heavy Duty che è il truck of the year, insomma qualcosa c'è adesso. La Delta targata Chrysler è molto interessante, diciamo che sembra adattarsi abbastanza bene al marchio americano, però è difficile dire se mai verrà prodotta qui. Probabilmente quello che arriverà per Chrysler sarà un'evoluzione dell'auto sulla stessa piattaforma, su una piattaforma leggermente modificata ma un po' adattata ai gusti del pubblico americano. Grazie Andrea Malani in collegamento con noi da Detroit. Di nuovo in diretta, allora la borsa di questa prima settimana, un po' più piatta rispetto alle prime sedute del 2010, meno 0,15% Milano, invariata praticamente anche Parigi, invariata Francoforte, invariata Londra, invariata America, tutto invariato. Oggi sui titoli si muove qualcosa di più, come sempre, bene Pirelli, più 2,3%, Eni più 1%, Atlanti più 0,70% come Saipem, mezzo punto percentuale rialzo di Prysmian, Snam, Rete Gas e anche di Geox, male Parmalat meno 4,2%, Impregilo meno 3,6%, Monte dei Paschi meno 2,2%, Mondadori e Banco Popolare meno 2%, ST Micro Electronics meno 1,80%, Telecom meno 1,5%, come la Popolare di Milano un punto percentuale, lo perde anche Unipol, Campari, Autogrill e Ubibanca. E allora, come sempre con i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Sui mercati, piatta la giornata, però partiamo da Pirelli, più 2%. Sì, Pirelli si è messa in evidenza sulla scia della concorrente francese Michelin. Secondo infatti Expansion, Michelin vanterà un utile netto 2009 in linea con quello del 2008, quindi è un risultato molto positivo. Non solo, ma la società vanterà anche un rialzo della produzione tra il 20 e il 25%, quindi questo ha riacceso i riflettori un po' su tutto il settore dei pneumatici, ovviamente in Italia anche sulla stessa Pirelli. Tra l'altro a sospingere in alto le quotazioni di Pirelli comunque è stata anche l'indicazione di Peugeot, che prevede appunto una ripresa delle vendite auto nel 2010. Poi anche voi avete parlato appunto di indicazioni fornite per il settore auto, che come sappiamo è legato a doppio filo al comparto dei pneumatici. Questo per quello che riguarda Pirelli. Andiamo avanti con chi ha guadagnato oggi in borsa. Bene anche gli energetici, ci trovavamo già Eni. Immagino che qui si possa chiudere, archiviare con un petrolio a $83 al barile. E invece sul fronte delle debolezze notiamo, vabbè, Impregilo meno 3,70, Parmalat meno 4,20 e anche Monte dei Paschi meno 2,2. Sì, guarda, oggi tutto il comparto bancario ha registrato, diciamo, ha frenato, fatta eccezione di Unicredit che, diciamo, ha beneficiato del fatto che proprio oggi è partito all'operazione sul capitale da 4 miliardi. Peraltro nel tardo pomeriggio è emerso anche che la fondazione CRT, che è la seconda fondazione azionista dell'istituto, aderisce all'operazione. Per motivi tecnici appunto anche le azioni hanno guadagnato lo 0,33%, ma contro un settore che è andato male invece non solo in Italia ma anche in tutta Europa, almeno 0,73% il sottoindice europeo. Per quanto riguarda altri titoli che hanno perso terreno, si può dire che sono scattate un po' le prese di beneficio, soprattutto sulle azioni, quelle cicliche che avevano corso maggiormente la scorsa settimana. Su Parmalat in particolare però c'è la notizia che la società, essendo esposta in Venezuela, risente della decisione che è stata presa da presidente venezuelano Chavez di svalutare la moneta appunto venezuelana. Gli analisti ritengono che questa mossa abbia un impatto negativo sugli utili dell'anno in corso del 2010 di Parmalat fino al 10%, ma queste per adesso sono semplicemente, diciamo, delle valutazioni effettuate da parte degli analisti. Allora, restiamo sui maggiori, poi arriviamo anche ai titoli più piccoli. Su Telecom Italia un po' di debolezza, meno 1,5%, scende a 1 euro per azione. Qui di nuovo è il problema argentino, la multa? Esatto, venerdì è emerso che le autorità argentine stanno facendo pressing, è emersa anche una data, il 25 febbraio, entro la quale Telecom Italia deve cedere la partecipazione in Telecom Argentina, altrimenti interverranno le autorità con sanzioni e comunque appunto con interventi per rendere effettivo il passaggio di proprietà. Ancora tra i minori, e qui torniamo su Mariella Burani Fashion Group. Ricordo chi ce lo scrive al 349-238-6666, perché si è messo in ascolto adesso, che oggi i PM di Milano, Orsi e Clerici, hanno chiesto il fallimento nei confronti della holding, una delle holding a monte della catena di controllo del gruppo di moda. Mariella Burani è la Burani Designer Holding, che ha sede ad Amsterdam, ha debiti scaduti, cioè che non ha pari pagato, per 20 milioni di euro. Complessivamente sul gruppo Mariella Burani pesano praticamente 500 milioni di euro di debiti contratti con 40 diverse banche, che hanno chiesto ripetutamente al gruppo di depositare 50 milioni di euro in un conto vincolato. Walter Burani, presidente della società, e il figlio Giovanni, ex ministro delegato con la delega alla finanza, sono nel frattempo indagati per falso in bilancio, aggiotaggio, ostacolo all'attività degli organi di vigilanza e frode fiscale. Questo, il titolo è sospeso da agosto, dal 28 agosto se non ricordo male. però qualche impatto potrebbe averlo avuto, penso a un titolo come Antichi Pellettieri che perde il 6%. Eleonora? Antichi Pellettieri è controllata da Mariella Burani, fa parte sempre del gruppo Burani e quindi pesano ovviamente le notizie che emergono su tutto il gruppo Burani. Peraltro la stessa Antichi Pellettieri ha una situazione finanziaria abbastanza delicata, è la società del gruppo che comunque va meglio, ma anch'essa ha dei debiti che sono in fase di ristrutturazione. Anche in questo caso c'è una trattativa abbastanza serrata tra la società e le banche. Ancora il migliore in assoluto della giornata, visto che parlavamo del peggiore, è Seat Pagine Gialle sulle ordinarie, più 15%. Esatto, le Seat si sono risvegliate proprio sul finale di seduta, più 15%, il mercato sta scommettendo che siano in arrivo notizie anche in questo caso sulla delicata situazione finanziaria della società. In particolare, due giorni prima di Natale la stessa Seat aveva annunciato che stava trattando con Royal Bank of Scotland, il principale creditore appunto di Seat Pagine Gialle, per emettere eventualmente un bond che vada appunto a migliorare la situazione. Sì. Evidentemente Piazza Affari sta scommettendo che siano in arrivo delle novità e quindi ha premiato le azioni con questo balzo del 15%. Allora, secondo peggior titolo Telefonica, anche qui pesa l'Argentina, meno 5%. E miglior titolo in assoluto dopo Seat, Prima Industria più 8%, segnalo anche Tiscali più 4,60%, il gruppo Coin più 4%. Chi ci chiede dell'euro a 1,45,35, grazie Eleonora Micheli. Mamma mia, che attesa per l'astrologa. Allora, vi ricordo che l'astrologa è venuta un anno fa, volete sapere già se ha imbroccato le previsioni un anno fa, imbroccato forse non è un termine così corretto, però insomma, sì, devo dire, poi lo racconteremo, ma insomma, siccome si segnalava un'economia internazionale positiva in ripresa nel 2009, non c'è stata una coincidenza, diciamo che il punto più basso dei mercati, lo ricorderete, è stato fatto il 9 marzo, da lì poi insomma la via del rialzo è stata netta e le borse hanno chiuso tutte con un rialzo tra il 15 e il 20%, le borse principali. Aveva segnalato una preoccupazione in autunno, in effetti il 26 novembre Dubai rischia di saltare per aria e poi a dicembre i conti pubblici della Grecia. Aveva segnalato comunque un 2009 forse migliore del previsto e anche qui mi sembra che ci abbia azzeccato, perché se ricordate come quali erano le prospettive a inizio 2009 e come poi si è chiuso l'anno, è andata sicuramente meglio. Le prospettive non è andata bene, ma sicuramente meglio. Questo perché c'era una mutua ricezione tra Giove, Nettuno e Urano. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Dopo aver approfondito in apertura le ipotesi di riforma fiscale, chiaramente mi sembra che sia emerso in maniera molto netta a gettito invariato, visto i problemi di debito pubblico, di deficit e di rifinanziamento del debito. Tra l'altro ricordo che appunto in una nota uscita dall'ANSA il Presidente del Consiglio Berlusconi mezz'ora fa ha detto che l'auspicio è di incardinare la riforma fiscale quest'anno, ma è presto per parlare di riduzione delle tasse nel corso del 2010, visto che la priorità resta quella di mantenere in equilibrio i conti pubblici. E aver affrontato il tema del salone dell'auto di Detroit e dei mercati finanziari, ricordo che si è messo in collegamento, chiusura praticamente invariata su tutte le borse. Adesso, a grande richiesta, iniziamo, come faremo anche nei prossimi giorni, a occuparci di previsioni sul 2010, dei mercati azionari ma anche dell'economia in generale, e mi sembra che insomma un po' di, col massimo rispetto, un po' la volata, la palla ce l'abbia alzata questa volta in maniera insospettabile anche lo stesso pontefice. Ecco perché inizieremo con l'astrologa. Ma non avete altro da inventarvi che portare l'astrologia in onda per parlare di mercati, come siete caduti in basso. Per carità, tutte le opinioni sono valide. Certo, le previsioni dell'astrologia sono così, qualcosa che uno può prendere in maniera seria o in maniera faceta. Noi sicuramente siamo della seconda ipotesi, però vorrei ricordare anche che non basta la serietà dei toni, degli abiti e del biglietto da visita per azzeccare le previsioni, Che ne dire allora della mitica Deutsche Bank che prevedeva nel 2008 un rialzo dell'economia e l'inflazione al 4%, oppure di quella previsione sul petrolio di Goldman Sachs che lo vedeva a $200 al barile nel giro di 2 anni, questo a metà maggio 2008, poi abbiamo visto che il petrolio è sceso fino a 34, o della Banca Centrale Europea molto citata, ma insomma che alzò i tassi di interesse a metà 2008 convinta che il problema fosse l'inflazione, non la più grande crisi economico-finanziaria degli ultimi 50 anni. Quelle però sono previsioni molto alte perché vengono da appunto Deutsche Bank, Goldman Sachs, Banca Centrale Europea, la stessa Federal Reserve ha preso più di qualche cantonata, visto che l'attuale numero uno Bernanke a metà del 2008 disse: non prevediamo alcuna recessione negli Stati Uniti. E allora a mio avviso si possono sentire anche altre previsioni. Comunque restiamo sullo spunto di cronaca perché lo scorso 28 agosto, qualcuno se lo ricorderà, il ministro Giulio Tremonti al meeting di Rimini, di Comunione e Liberazione, così si espresse su maghi e stregoni, diciamo in un senso si può vedere come una promozione a livello di economisti, oppure nell'altro senso si può vedere come un abbassamento degli economisti a livello di maghi e stregoni. Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. Tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausto stesso, pure molto rispettabile, Prospero, il mago di Oz, Harry Potter, naturalmente c'è anche Mandrake, il mago Witz, Satanic, devo dire anche il mago Thelma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Nessuno di questi ha mai detto ho sbagliato. Hanno sempre sbagliato gli altri. Così il ministro Monti a fine agosto, e poi insomma, tutti ricorderete, hanno molto parlato anche i giornali, il 3 gennaio il Papa nel primo Angelus Domenicale del 2010 ha detto no, non fidarsi dei cartomanti, dei maghi, ma attenzione che anche le pur importanti previsioni economiche non possono costituire la bussola, ecco perché poi molti giornali hanno titolato non affidarsi a cartomanti ed economisti. Un monito molto profondo, secondo lo stesso ministro Tremonti, che il 3 gennaio è tornato sul tema, lo ha fatto il TG1, sentiamo questo passaggio dell'intervista. È un pensiero molto profondo. Il futuro degli uomini non è né un oroscopo né un software, non è un palinsesto, non è un programma di computer. E non ha senso, è superstizione prevedere il futuro delle cose umane, della politica, dell'economia, perché questo dipende dall'uomo, lo fa l'uomo stesso, e pensare di saperlo a prescindere dall'uomo è arroganza di una conoscenza che si crede illimitata, ma non è illimitata. Il nostro futuro non è un destino fisso e dunque non ci sono progressi o declini inevitabili. Il nostro futuro è aperto e dipende da noi, dalla nostra libertà, dalla nostra responsabilità, dalla nostra capacità di agire, dalla nostra saggezza e dalla nostra speranza. Io, per esempio, per il tempo che stiamo vivendo, ho molta fiducia nella saggezza degli italiani, dei lavoratori, degli imprenditori, ed è questa la ragione per cui ho anche speranza. Così appunto il ministro Tremonti al TG1 il 3 gennaio. E allora, giocando anche con un po' di ironia, leggerezza, spero appunto non stupidità, ma solo leggerezza, noi torniamo sul tema. Non se ne abbiano, vedo già alcuni messaggi, i fan degli economisti, degli analisti, li avremo ospiti come ogni anno, lo facciamo ormai da 10 anni, e quindi avranno la parte del leone. Lasciate un po' di spazio, uno strapuntino anche a chi non si affida alle soglie, alle resistenze tecniche, alle previsioni sul PIL, sull'inflazione, ma si affida agli astri. Sì, perché potevo anche continuare, ma non voglio inferire. C'era anche Marilyn Lynch che nel 2008 disse: non vi preoccupate, la crisi è passeggera, assomiglia a quella del 91. E poi ancora tutti ottimisti, Lehman Brothers, poi si è visto che bene gli ha fatto, JP Morgan, la crisi sarà passeggera. Addirittura Marilyn Lynch prevedeva che il settore immobiliare sarebbe cresciuto anche nel 2008. Ma è lo stesso commissario europeo a fine novembre del 2008, Joaquín Almunia, non ce ne abbia nemmeno lui, diceva 2009-2010 saranno anni difficili, però insomma l'ottimismo può anche essere un elemento possibile. Cosa ha previsto invece la nostra astrologa nel 2009? Lo ricordavo prima. Essendoci una mutua ricezione tra pianeti Giove, Nettuno e Urano, praticamente ci potrebbero essere conseguenze inattese e dall'aprile in poi la situazione sarebbe dovuta migliorare in peggio, con qualche invece nuova preoccupazione in autunno. In effetti il punto più basso è stato toccato il 9 marzo, un po' dopo rispetto alle previsioni dell'astrologa. E in autunno abbiamo avuto a Dubai nel 26 novembre il crack che ha fatto temere molti, e poi la Grecia con i conti pubblici a dicembre, ma comunque devo dire che si è confermata un 2009 migliore del previsto. Diceva anche la nostra astrologa che siccome il 5 gennaio dell'anno scorso Giove è entrato in acquario, e l'acquario è il segno della borsa italiana, la borsa italiana avrebbe fatto meglio, si sarebbe ripresa. In effetti Piazza Affari alla fine ha chiuso con un rialzo del tutto non trascurabile, insomma, 20% in più, chi l'avrebbe mai detto un anno fa, ed è una delle migliori, perché assieme a Londra è una delle migliori borse europee. E allora grazie Mirti, buonasera e buon anno. Buonasera e buon anno a tutti. Allora, tra l'altro era il 9 gennaio di un anno fa quando la ospitammo, quindi stiamo rispettando anche le scadenze. Questo lo dico a chi pensa che il programma abbia preso una deriva ormai esoterica, non vi preoccupate, ammesso che diciamo faccia solo male. Lei è autrice di un libro pubblicato da Sole 24 Ore, Investire con gli astri, lo pubblicò un po' di anni fa, 10 anni fa. Prima delle informazioni per chi è in viaggio, ci dica innanzitutto quali fondamentali astrologici dobbiamo guardare nell'anno che è appena iniziato. Vorrei capire appunto che cosa, come si muovono i pianeti, poi vedremo come si muovono gli analisti. La cosa più singolare di tutte è data da Marte, che di solito si trattiene 2 mesi per ogni segno, e invece dal 16 di ottobre 2009 fino ai primi di giugno 2010 compie una boucle o anello di stazionamento nel segno del leone, quindi è molto probabile che le problematiche che abbiamo riscontrato negli ultimi mesi le ritroveremo uguali all'incirca all'inizio dell'estate, cioè si è una certa stabilità nel bene e nel male. Poi abbiamo Saturno che ormai è entrato decisamente nel segno della bilancia, e qui è interessante il fatto che alcuni dei più importanti uomini politici italiani appartengono a questo segno, in particolare Berlusconi, Di Pietro e Bersani. Per sì, cui... però è un po' para qualcosa questa sua definizione, perché insomma lei ha citato tutto l'arco, Berlusconi, Bersani, no, Di Pietro. Nati, e non è così. Ha ragione, però insomma va bene a tutti. Sono nati va bene al PDL, al PD e all'Italia dei Valori. Ma non è un pianeta porta fortuna, è un pianeta piuttosto difficile e serioso, e vedremo come sarà l'estate di questi tre personaggi, sarà molto impegnativa. e questo sì, per quanto riguarda Saturno. Non che quella scorsa lo sia sta meno, comunque. No, no, però direi che quella del 2010 sarà decisamente diversa, e specialmente la luna nuova di agosto direi che ci imporrà dei ritmi poco vacanzieri, cioè sarà particolarmente impegnativa. Poi, allora, facciamo una cosa, ho io le informazioni per chi è in viaggio, basate appunto sui dati di fatto, non sull'astrologia. Fate chiarite che è un gioco e non abbiamo detto, insomma, in maniera un po' leggera cerchiamo di parlare anche di questo. Avremmo voluto vedere lo stesso approccio però anche quando leggiamo i report che sono scritti invece come sulle tavole della pietra di certi analisti, banche mondiali, fondi monetari, banche centrali, lì non c'è mai la premessa: ragazzi, stiamo un po' scherzando, il petrolio va a $200, lì si pagano i report, commissioni, fior di commissioni. Noi lo diciamo, stiamo un po' scherzando. Allora, grazie a Mirti, abbiamo capito insomma che d'estate per questi segni, bilancia, che poi significa tutta la politica italiana, Bersani, Berlusconi, Di Pietro, sarà un'estate abbastanza movimentata. Possiamo tornare sui mercati e sulle borse, ma non solo, sull'economia. Vorrei capire, mi dà delle resistenze, delle soglie tecniche astrologiche? Allora, prima di tutto il 18 di gennaio Giove lascia il segno dell'acquario. Oddio. E si trasferisce nel segno dei pesci, per cui viene meno quella protezione che aveva espresso nel 2009, però le cose sono abbastanza direi fluttuanti, e nel segno dell'acquario, oltre alla sparizione di Giove, dobbiamo registrare il percorso di Lilith, la luna nera, che è il secondo fuoco dell'ellisse lunare, che è un fattore di disturbo, di pettegolezzo e di eventuali piccoli scandali che si possono manifestare tra adesso e il prossimo mese di giugno. In effetti di pettegolezzo e piccoli scandali non abbiamo avuti nel 2009, quindi ci penserà la luna nera di Lilith, va bene? Sì, esatto. E poi per quanto riguarda invece i mercati a livello internazionale, abbiamo un discreto mese di aprile e anche seguito da qualche buon risultato in maggio, mentre si segue il solito criterio che l'autunno è più difficile e specialmente novembre potrebbe riservare qualche rischio alle borse di New York, di Tokyo, di Londra, che sono tutte e tre nate nel segno del Toro. La fine anno sarà invece un po' più propizia, perché ci sarà un grande accumulo di pianeti nel segno del Capricorno. In estate è possibile che ci sia un rialzo dei tassi, proprio a seguito di quei movimenti che dicevamo di Saturno e di Marte nella bilancia. Poi per quanto riguarda invece un'altra Mi faccia riepilogare, perché qui c'è un'attenzione che purtroppo mai abbiamo avuto quando venivano certi invece... No, lo dico con massimo rispetto, ma vedo che tutti si stanno scatenando. Allora, io ormai capisco che dopo questa batosta presa nel 2008-2009 ci si aggrappia tutto. Comunque, restiamo sempre sul tema leggero. Vabbè, secondo le soglie, le resistenze e le soglie tecniche dell'astrologia e appunto i fondamentali astrologici, a novembre un po' di difficoltà a Wall Street, se ho ben capito, mentre sarà Marte in Scorpione. Certo. E Marte in Scorpione sono problemi, e invece mercati che vanno abbastanza bene fino a metà anno? Sì, praticamente soprattutto in aprile e maggio. Poi invece tra maggio e giugno ci può essere un rischio relativo soprattutto al dollaro, che in questa fase soffre di un eccesso di circolazione proprio per la congiunzione Giove-Nettuno in acquario, che è sulla luna della carta del cielo degli Stati Uniti, calcolata per il 4 luglio 1776 al 17:10 a Filadelfia, detta la Sibling Chart. Praticamente c'è questa pressione sulla luna che potrebbe portare a un eccesso e quindi a un effetto di inflazione, con un duro conflitto con la Cina, e quindi direi verso la fine dell'anno poi con dei risultati difficili per l'America. Vede che non si smette mai di imparare. Io pensavo che ci fosse un eccesso di dollari in giro per un eccesso di liquidità dovuto a tassi base storica, invece eccesso di fabbrica di dollari, dal mio modestissimo punto di vista. Mi scusi? carte proprio di stampa di dollari. Sì, no, no, ma restiamo sull'astrologia. Io pensavo ci fosse un problema di tassi di interesse bassi, di liquidità che prima o poi andrà fatta rientrare. Lei ci ha spiegato che c'è una pressione sulla luna che, insomma, che va in questa direzione, e anche lì i rapporti Cina-Stati Uniti io li ritenevo più giocati sul fronte del finanziamento del debito pubblico americano da parte cinese, e invece lei ci ha spiegato che questo è sempre un influsso lunare. Questa è una mia opinione. No, ma no, ci mancherebbe. Mi sembra che un po' siano opinioni, tutte siano opinioni, visto che ci hanno azzeccato in molti pochi. Andiamo avanti con questo. La luna nera ce l'ha detta, in opposizione fino a giugno, poi influenzerà il dollaro. Saturno in bilancia non alleggerisce la situazione, né di Berlusconi, né di Bersani, né di Pietro. Questi poi, tutti quanti. Giove in pesci. Giove in pesci, eccoci. Dovrebbe dare una grossa mano a Fiat. A Fiat? Fiat è nata in pesci, e quindi secondo me dovrebbe arrivare dei risultati particolarmente promettenti, perché nei primi sei mesi dell'anno Giove passa proprio sui pianeti di Fiat, e c'è una luna nuova spettacolare in giugno che è proprio sui pianeti di nascita di Sergio Marchionne. Hai capito. Che sta parlando in questo momento a Detroit, e in effetti ha detto che i risultati del 2009 confermano gli obiettivi. I temi dell'occupazione e dell'economia in generale? Sì, purtroppo non sono ancora così brillanti, specialmente in estate, perché c'è una retrogradazione di Saturno che ripropone le stesse problematiche, anche se in termini forse un po' differenti, però c'è ancora un ritorno ai conflitti del passato. In estate abbiamo anche una novità assoluta da secoli, e cioè c'è una nuova congiunzione di Giove e Urano, e questo porterà sicuramente a un balzo in avanti della tecnologia, con dei nuovi scenari che potranno manifestarsi soprattutto nel 2011, perché a settembre i due ritornano nel segno precedente, quindi diciamo che sarà soltanto una prova generale, però ci saranno delle nuove opportunità tecnologiche molto brillanti, forse anche il Nasdaq potrà poi guadagnarci. Hai capito. Un'ultima cosa su fine anno, così facciamo guidare gli automobilisti con una mano sola. Cosa vuol dire che tutti i pianeti si concentrano in Capricorno? Vuol dire che praticamente per la fine del 2010 Marte arriverà in Capricorno, dove già trova Plutone, e poi per una questione stagionale ci saranno il Sole, Venere, Mercurio. Per cui tutti questi pianeti insieme faranno un'opposizione rispetto ai pianeti di nascita degli Stati Uniti, e anche per esempio alla Venere di nascita di Obama, eccetera. Quindi è una fase critica per gli Stati Uniti. A titolo di esempio, quando sono crollate le Torri Gemelle, proprio Marte era appena entrato nel Capricorno, quindi è proprio un punto un pochino delicato. Vabbè, ho capito l'andamento delle borse secondo l'astrologia, ho capito anche dove si collocheranno elementi critici per gli Stati Uniti secondo lei e per i nostri politici attraverso i vari segni. Non mi resta che augurarle in bocca al lupo, buon anno. So che fare un augurio del genere a un astrologa può sembrare un po' strano, perché dovrebbe sapere già tutto il suo anno. Ma chiedo scusa comunque agli ascoltatori agnostici, io faccio il mio lavoro serenamente, no. Auguro loro pensieri celestiali per tutto l'anno. Oh là, pensieri celestiali per tutto l'anno, ci manca. Grazie, molte grazie Mirti. Arrivederci. Focus stregoneria, addirittura ti stai studio apertizzando, che è un'offesa. Alcuni di voi scrivono: ma questa crede davvero a quello che dice? Immagino di sì, come immagino ci credessero Lehman, Goldman Sachs, Banca Centrale Europea, Federal Reserve, Fondo Monetario Internazionale e centinaia di report che vi risparmio. Loro ci credevano e si facevano pagare, almeno grazie Mirti, era gratis. E abbiamo iniziato l'anno con un tema più leggero. Domani torniamo e avremo amministratori delegati di società di gestione, economisti, analisti, tutto come sempre, quindi gli ortodossi difensori del programma saranno contenti. Per ora, dopo aver capito come dovrebbe essere astrologicamente parlando l'anno, vi auguro una prosaica buona serata. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.